Berlusconi offre a Letizia Moratti una nuova arma letale. Contro Pisapia ti mando anche Gattuso. Attenti al gorilla. D'improvviso la grossa gabbia dove viveva l'animale s'aprì di schianto, non so perché, forse l'avevano chiusa male. Attenti al gorilla.